notte ben chiara, la luna ben calente, del campo sol che miela o laila, e non se vedeva più niente, del campo sol che miela o laila, e non se vedeva più niente. La pelciara Elisa, i soffianchi ben alti, poi ha de toccarla pianino laila, vedrio e anca davanti. Poi ha de toccarla pianino laila, vedrio e anca davanti. Sapeva come scomiciar, guardeva quel corpo perfetto, de colpo me vien coraio laila, che metto le mante il petto, de colpo me vien coraio laila, che metto le mante il petto. Sentiva una gran paura, me cuore forte batteva, intanto e la venti in pianino laila, le grosse gambe sverdeva, intanto e la venti in pianino laila, le grosse gambe sverdeva. Che ho conseguito e la ferma spalanca me go metesto bramoso laila e liquido bianco è saltà, me go metesto bramoso laila e liquido bianco è saltà. Ecco tutto pareva finito, quasi me porta anche a maca, prima volta che tiro la teo laila, c'è una peada di avaca, prima volta che tiro la teo laila, c'è una peada di avaca, prima volta che tiro la teo laila, c'è una peada di avaca. Prima volta che tiro la teo laila, c'è una peada di avaca.